che può essere, aspettore, non lo so io. Buonasera. Buonasera. Grazie, Tina. E lo vedi in giro, no? Se vorrei trovare. Allora avevo ragione che in giro. No, ero da mia figlia e quindi si è andato a pigliare la signora e si è tornato. Hai fatto il tuo dovere che dovevo fare. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Ma purtroppo devo fare il dovere mio. Per forza maggiore, cazzo, se mancherebbe altro. Non lo posso fare gli altri, no? Lo devi fare tu questo qua. Infatti. Non lo so se andiamo bene o male. Adesso so, mi dovresti dire com'è questa radio e ti lascio la portata un attimino, a vedere un po' se c'è qualche rosio. Com'è? È buona. Oddio, non c'è. È buona come radio. Come segnale, come radio. Non te l'avevo detto cosa è successo a questa pericola, l'ultimo che ho preso, so. Quello del finale, no? E il 2009. Sta uscendo bene, sta uscendo. Mi sto confuso. Il 5005, so. L'ultimo che ho preso ultimamente. Sta uscendo bene, come radio. Non so cosa è successo l'altro giorno, la settimana scorsa. Stavo parlando e mi sono assentato un attimino, l'ho spento, sono tornato, vado a accendere e non accendevo più l'apparecchio. Ma sono bruciato il fusibile, così è. No, il fusibile era buono. È distrese, si è fatto nero il frequentimetro. Oh! Cosa era successo? Allora abbiamo telefonato e ci hanno detto a rispedirlo. L'abbiamo rispedito ed è arrivato nuovo, però quello là dice che non si può aggiustare. E me l'hanno cambiato, me l'hanno dato un altro nuovo. Ed è questo che lo sto provando. Per quello è. Non è che abbia fatto contatto, no? Si è bruciato. No, ma mi sono accorto che quando accendevi il display come accendeva sembrava un po' scura la tutto, capito? E infatti dopo 2 o 3 giorni si è bruciato completamente ed è rimasto bloccato sul canale 9, perché c'era il numero del canale 9 acceso, la luce c'era, però era un po' scura la radio sul display, capito? Però non funzionava più. Ti hanno detto di rispedirglielo e te ne hanno mandato un altro. Esatto, l'hanno controllato, dicevo che fa aggiustare, lo mandiamo nuovo. Perché lo credo, l'ho mandato, l'ha ricevuto come io ho pagato, che è la garanzia per cui me l'hanno mandato nuovo. È arrivato stamattina, e lo sto provando. Come radio è buona, segnale e radio sono buoni. Radio perfetta, proprio sente bene. Sto usando il microfono originale, il tuo, sto usando. L'amplificato non lo metto ancora, adesso lo voglio provare a vedere un po' come fa. No, io sto funzionando benissimo, sta funzionando. Fa piacere. Grazie, che immaginate. Ma io mi sono accorto, non mi piaceva perché su display c'era una sigla. C'era una sigla che rimaneva su canale 10. Questa sigla era DHC, una cosa del genere. Era sempre accesa quella. E io penso sia da quella sigla che ha causato tutto, ma non l'ho messa io, è arrivata così, con quella scritta così. Infatti è così, purtroppo. Buon inglese l'ha scritto. Vabbè. L'importante è che te la Gianni Giambado. Ci mancherebbe altro, cazzo. Stanno 2 anni di garanzia questi qua, come 2009. Oh, è precisa 2009. E le stesse caratteristiche, cambia solo la luce del display, per sottotitoli. È tutto preciso del 2009, capito? Hanno cambiato la marca, però è preciso, è identico. Sì, no, è già così infatti. Infatti è così. L'importante è che funzioni bene. Adesso vedo un po'. Adesso sigle non ce ne rimane, non c'è niente. C'è solo la frequenza e è tranquillo, va. Perfetto, mi sembra che sia perfetto. Adesso vi do un po' la rinizia che fa. Vabbè. Va bene così. Eia. Vediamo un po'. Oh, e poi è scaldava anche, quello là scaldava molto. Oh, scaldava molto, invece questo adesso non sta scaldando. No, magari è cazzato, perché scaldano quando parli, quando non parli acceso non scaldano tono. Solo quando parli scaldano il finale. Ma quello scaldava parecchio, adesso questo non sta scaldando ancora, riesce a toccare. Appena, ma roba da niente, capito? Scalda poco, scaldano. No, un pochettino devono scaldare. Io pure penso. Sono pensi che hanno necessitato una certa energia e allora chiaro che come la lampadina, scalda quando la spingi. Sì, la lampadina sì, è tutta diversa, la lumina che scaldi. Ma questi c'hanno il finale che scalda un pochino, scalda, ma non più di tanto. E adesso con la luce a fredda non scalda la lampadina. Certo, io ce l'ho da anche 3-4 ore e la tocca la lampadina e non scalda, sempre che scalda. Sì, infatti è così. Vabbè, l'importante è che funzioni bene. Già sta uscendo bene, come segnale e come radio. Aspetta che ti metto l'eco adesso, com'è questo, Ecco, adesso c'è l'eco tu, com'è la situazione? L'eco? No. Non si sente che c'è l'eco? No. È normale, è la parola più amplificata. Ah, così è. Non pensavo che l'eco si fosse sentire, però si sente poco, così è. Si può dire nulla. Oh, strano, eh. Aspetta allora, E adesso 1, 2, 3, prova. Ma se ferma te sì. Allora questo l'eco non funziona nulla, so. No, a me mi sembra che lo dovresti aumentare ancora di più. Aspetta allora, vediamo un po'. Ora, e adesso 1, 2, 3, prova. Appena, un pochino di più si sente. Adesso quasi al massimo, 1, 2, 3, prova. Nulla, no, è sempre lo stesso. Non mi interessa, ecco, tanto non implica niente, lo tengo direttamente, ecco qua. Già va bene così. Non mi interessa, ecco, tanto. Va bene, ma deve funzionare però. Vabbè, non te la fatti nulla. Come l'eco dovrebbe funzionare? Però come, aspetta, riproviamo. Ora. Un pochino, sembra amplificata, sembra la voce. Vabbè, l'importante è che si senta bene, chiara. Ma pare che si fa vedere con un altro microfono insieme. Ecco. Aspetta. là, e forse devo aumentare la potenza per sentire l'eco. Bisogna aumentare la potenza per sentire l'eco, perché questo va fino a 40 watt, da 4 a 40, a 12 watt da questi maestri. Sì, allora dobbiamo aumentare un po' la potenza per farlo uscire proprio con la voce, con l'eco. Fate così. Sì, non mi sento. Va bene così, portate già chiara questa qua. Già va bene, altro ecco, già leccano gli altri, a parte mia. Non lo vedo. Ma già, Abuglia, sta uscendo benissimo, stai uscendo, la voce è chiara. Bene, bene, ok. Sto girando. Grazie, ma... Scusa, strana, meno male. Meno male che l'abbiamo finito subito. Hai fatto bene, così almeno è riservato e se ne sono accorti subito loro che non si può aggiustare. Ma loro lo hanno qualcuno e lo aggiustano. Per colpa. Oh, se no lo portano tornare in fabbrica. Se qualcuno ha una batte, ci dovrebbero mettere in piedi. Io penso che se diventa una parte non ritorna alla fabbrica quando lo funziona e non stanno girando la testa a riparare, perché allora la ditta deve andare a sinistra, eccetera, eccetera. Io penso invece che rimangono direttamente alla casa e a cambiare direttamente quando lo funziona. Sì, non è fatto così. Cioè funziona benissimo adesso, ho visto che la voce è bella chiara, quindi... È quello che costa. È nuovo, questo è nuovo, è nuovo, me l'hanno mandato nuovo, dice che c'è il sigillo, c'è il sigillo, c'è... E per cui, e che lo so, che non si può aprire io. Sì, no, il sigillo non vuole toccato, Non aprirlo perché cominciamo a perdere la garanzia. E come quell'altro, no? Quello che ho scritto, e quello c'era il sigillo. E che l'ha toccato? Come l'ho visto, l'ho spento, non l'ho toccato più, e ho rimesso dentro la scatola. Oh, abbiamo interfatto subito, capito? E per cui... già ci hanno risposto che non si poteva aggiustare, che se lo mandavano l'uomo. Non sembra vero. Io i sigilli ce li ho attaccati all'alimentatore in tutti e due. C'ho tutti e due i sigilli. All'alimentatore? In quello grande e in quell'altro da 32. Ecco, non l'ho guardato. E io lo prendo. Tre ne ho preso, per cui non mi sono accorto, veramente sto ballando, l'ho attaccato e basta. Poi intanto lo pulisco con un pannellino, ma non ci ho guardato se ci giuro oppure no. Chi li tocca a te? Ma io non tocco mai niente, non è compito mio, capito? Ce li hanno dietro, sono gialli, sono i sigilli. E cosa c'è quello della tele con questo cazzo da catturare, il libro c'ero 15 anni sul alimentatore a 32, ma basta, per cui ce l'ha fatto bene, e per cui... non lo so se c'è lui il sigillo o no. C'ho questo telecom lo stesso che c'hai il sigillo giallo dietro. Ma dove si sigillo? Dove è attaccato? Dovrebbe essere dove si tira la vite, che è il modo che si apre, si rompe il sigillo. Dovrebbe essere una cosa del genere. Da qua si vede sopra, che è sopra la lamiera, ed è giallo. Posso, non ti riguarderò quattro volte, quindi va a dove va mai dato, ha un piccolo fatto, e chi ha guardato mai? No, ma anche se 2009 ha preso ultimamente, c'era 6 sigillo. Però è sulle due viti di dietro, tra una pista e l'altra, e si chillo, cioè, capito? Mi sembra dove, anche qua si dovrebbe essere, boh, non l'ho visto. Sì, sono attaccati al capo di sopra appena appena e poi dietro sulle viti. E beh, è chiaro che se tu rompi il sigillo perde la garanzia, capito? Infatti il sigillo è la garanzia di quello lì, se lo apri perde la garanzia. Vabbè, ma la garanzia quanto è? Un anno? Cioè, si usa il mercatore? No, 2 anni sono lo stesso, di 2 anni. Ah, sì. Il 2009 2 anni di garanzia. Anche questo, 50, anche questo dovrebbe essere 2 anni di garanzia, perché sono precisi, capito? Sì, signore, tutti gli apparecchi, anche gli elettrodomestici, sono 2 anni di garanzia. Certo, se lo apri, chiaro, perde la garanzia, certo. Abbiamo fatto l'apparecchio che abbiamo preso da Germania con Luca, certo, paga 320 euro, certo, e non funziona, dove smontato era, e c'era questo sigillo, no, dove c'era la vista del tappo, e Luca mi ha detto, apri un po', ha aperto, e ha perso la garanzia da quel punto sotto. Sì, se toglie il sigillo, perde la garanzia, sì. È fatto apposta quello per non toccarlo, per non aprirlo. Ecco cosa è. Messo tutto è messo. E perché infatti l'avevo preso la EB, perché l'abbiamo scritto la EB, e dice la garanzia, allora perdere, e non me ne hanno cambiato, so. Nemmeno soldi me l'hanno tornato. Sì, perché una volta che ha aperto non perdi la garanzia, perdi tutto, andate in giambani. Deve essere intatto, deve essere, deve restituire intatto, con il bollino attaccato dietro. Ecco cos'è, se tu lo apri vedi la garanzia. Beh, infatti io questo qua, quello là, non l'ho aperto, assolutamente. Ho visto che è mancato tu, è mancata la frequenza, dove è stato un po' nero il display, e che il canale 9 è acceso. Strano è. E non cambiava il mio canale, rimaneva bloccato, che il sigillo c'era. E per cui la ragazza mi ha dato anche lo scontrino che ho pagato e la garanzia. Loro guardano il sigillo, se è intatto il sigillo e le cose te lo cambiano. Ecco cos'è. Insomma, non faccia questo. Ma la faccia questa, cazzo, è anche durato 3-4 giorni, non di più, è durato, e qui è durato. E vabbè, l'importante è che te la già in giambale, poi ce la va con Faedi. Sì, no, tranquillo, è perfetto, è perfetto, che mi sta ascoltando bene, mi sta ascoltando bene, va benissimo, ascolta. Quale c'hai il presidente c'hai tu adesso? Sì, sempre il presidente cioè, con il microfono MP4. No, volevo fare una prova di banda, ma sarà privata il giorno, va? Sì, a Giammaria, un altro giorno. E lo proviamo. E vediamo come fai No, quando ha scelto, quando ho tolto la casa, l'ha scelto ed era in banda, e c'erano... qualcuno il propagatore che arrivava fortissimo, però spento subito. Già è così. Ma me ne busco un altro, me ne busco anch'io, che ci abbia le bande, bisogna che mi rucchia, che ha da Nancy. metti così, almeno se mi chiedete la banda non faccio altro che girare. Bu, quale? Ecco che bisogna che me ne busti un altro con le bande. Ma nuovo lo prendo? Oh, non lo so se nuovo o seconda mano. Questo è un affare, sto. Questo è un affare. Sai che nel 2009 quanto l'ho pagato? Tra viaggio e tutto. 200 vini. Tra viaggio e tutto qua. E questo ho pagato 170 euro. Devo mettere un qualche soldino a parte per poterlo migliare. Ma tu non c'è, poi se mi stai lo prendo. Certo, non è che ci sto con questa maglia, affidiamo il baracchino, no? No, infatti, pagisco. Ho fatto un po' di pagando tutti i pagamenti e più un 30 di buttarsi la macchina a Cunsa, devi accusare la macchina. Prima sono le cose importanti, so come faccio io, prima sono le cose importanti, questa è l'ultima cosa, eh. Infatti, questa è l'ultima cosa, sì. Si andando, se non andando pazienza. Basta un tassi, sono buoni, so, Infatti, prima guarda, la bui quando va a giocare, che cosa? Me la ordineggio. Fai bene. E almeno ce l'hai con le bande, un compresso là. Come questi. Anche un 2009, va bene, come quello che ho io. Sempre ho due 2009. Ma questo è preciso il 2009. È lo stesso le stesse cose, non cambia nulla. Cambia solo il colore del display, blu. Che colore il display? Blu. Arancione. Arancione. Ma se lo volessi chiedere blu, te lo mandano col colore blu. No, non credo. No, quello blu è il 2009, quello che ho preso ultimamente io. Quello che avevo lasciato a provarlo. Anche quello è 2009, è tutto blu. E l'avevo visto che era tutto blu. E vabbè. La danza bello, se verdeccio è buono, se non verdeccio è paziente. E vabbè. Si va. Penso a mangiare, va buono, si di lavata, si penso. Allora. Io ti grido. Prima la piana era avanza. Buono, si avanza. Andava, se non avanza pazienza. E si avanza, già sta di rivedere un pizzo. Ci mancherebbe altro, cazzo, io piano. Piano piano sto. Già ti credo, piano piano, è sempre andendo. È quella che è la cosa più importante. Piano piano è sempre andendo. Certo. Ne ho tre precisi di questi io ne ho. Uno, anzi due nuovi, uno diciamo usato, quello che ho fatto mettere il finale della ricezione, ma anche quello è nuovo. Quello sarà. Avrà 5-6 ore di funzionamento, è nuovo. Infatti. Fate due capponini, a uno, ogni andanto ci andanno uno. E così sto facendo questo. E bisogna fare così, sennò si guastano i gatti. Infatti, ciò si guastano, deve farli funzionare uno ogni andanto. E anche tu stai sentendo bene, io lo sento perfetto, che è bellissima con la radio, è fortissima. E infatti è così, deve fare così, deve fare, piuttosto, è così. E però l'orecchio, tutto a posto, sì. E la voglia, magari per sempre abbassare la voce, che se no sentendo troppo. Allora devo abbassare la voce. Abbassavo la voce allora, va. Ma ha trovato il senso. A zero è. Cosa è tutto a zero. fa parte con quattro vacche questo, capito? No, sì, adesso ci sento benissimo, ci sento, ho voglia. Quante ore di colore? Sono col volume più basso. Sto parlando da qualche parte, con il microfono normale. È piccolino, piccolino, sembra un mandarino pare. No, però puoi parlare bene, solo che non abbasso io il volume. Abbassa, è troppo forte, abbassa un po'. Senta, ho ancora qualche residuo c'è sulle orecchie. Ha detto che me ne ha cavato un dutto, me l'ha controllato e me ne ha cavato un dutto. Allora ci puoi mettere l'acqua per bere allora. Ma non ne uso cotton fioc. Tutto male che vada mi uso il coso, quell'altro aspiratore che ho piccolino, e me l'aspiro con quello. Aspetta, funziona. Funziona, puoi fare così. Ma deve mettersi liquido o medicina oppure appena di acqua calda, dico. E se no non si toglie e non lo attira, perché se no si mette solo a posto e non attira nulla. No, mi ha detto a farlo senza mettere liquido, di aspirarlo così, che è così che ne esce. Sta fuori invece parte, dice che ci aveva una siringa, ci dava l'acqua, ci metteva il pietino e ci iniettava dentro. E dopo gli aspirava, sempre con la siringa se l'aspirava. Ho detto mi ha fatto tutta la asciutta, se no la posso lunga. Ma l'ha fatto così com'è, però con la pompetta tirava, altro che si tirava. Quelli sono apposta, sono macchinari apposta, e se no si scopo, perché di solito quando lo aspira si mette sulla punta, si mette il petto e caccia per forza, devi togliere e pulire il becco. Infatti, anche come ti diceva un coso, diciamo di 2 centimetri lungo che ha aspirato. Occhio, non so che ti parito, occhio, perché è pericoloso, capito? Me l'ha toccato io, un po' garillo, me l'ha fatto venire i dolori, infatti ha gettato in truccio un po' garillo, ha messo male, l'ho avvisato che mi stava facendo male, alla parte destra molto di più. E anche a me si sente tanto, sentivo la punta, il fisico, io lo intendo, e per cui stanno aspettando per quello. Perché un attimo se non c'è la mano ferma lì si rovina l'orecchio. La mano già c'è la mano ferma, però spingeva piano piano e andava appena più in fondo. Quando arrivo in fondo ho detto non va più, mi sta toccando, sono già arrivato. Allora lì ha tirato fuori e non c'era più nulla. Infatti tendia già troppo, intendia. Ah, me la sei tranquilla adesso. D'accordo, va. Mi sembra che io sono meno qua. Grazie la chiacchierata, ci sentiamo, buon proseguimento in serata. Sei tranquillo, dormi tranquillo, senza dolori, ciao. Ciao Giovanni, ci risentiamo alle prossime, ok.